Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria, in una giornata in cui Wall Street è chiusa, festa del presidente, e anche la Grecia, la borsa greca è chiusa, ma non c'è nessun retroscena, una festività nazionale anch'essa. Lo dico perché di nuovo tiene banco la vicenda greca e spagnola, quindi, ma soprattutto greca, i conti truccati della Grecia. Perché tiene banco? Perché secondo quello che avrebbero scoperto i quotidiani americani, soprattutto il New York Times, addirittura Goldman Sachs, una delle principali banche d'affari americane, una banca che ha subito, se non ricordo male, 18 miliardi di svalutazioni per via della crisi, che è stata aiutata dai soldi anche dello Stato americano, che li ha già ritornati, che ha già distribuito 16 miliardi di dollari di bonus ai manager, ebbene Goldman Sachs, assieme ad altre, avrebbe convinto, aiutato, fatto da consulente per la Grecia su come truccare i conti, su come presentare un bilancio all'Europa, a Bruxelles, farlocco, taroccato, diciamola tutta, quello in cui il deficit era segnato al 3,7%, mentre in realtà poi si è scoperto era al 13%, una piccola differenza. La cosa assume un altro rilievo anche perché Goldman Sachs appunto è in questo momento una delle banche che più ritiene, che più è contraria all'ingerenza dell'amministrazione americana, e assume un certo rilievo anche perché paradossalmente adesso sono le stesse banche d'affari che stanno scommettendo in questi mesi, in questi giorni, sul fatto che la Grecia possa saltare per aria, che ci possa essere un euro in indebolimento, che l'euro non tenga, insomma, da prima fanno la consulenza su come truccare i conti, poi puniscono il mercato stesso per i conti truccati. Interessante, come è un po' come se uno lanciasse un sasso, spaccasse un vetro e poi si proponesse come vetraio. Questa è la vicenda di Goldman Sachs, di cui parleremo alle 18:10, ma che sta suscitando molto scalpore. Ascolteremo anche alcune dichiarazioni rese dal governatore della Banca d'Italia Mario Draghi durante l'annuale vertice Forex a Napoli nel fine settimana. Le avrete alcune già lette sui giornali, in caso particolare quelle sulla Grecia, ma anche le perplessità del governatore sullo scudo fiscale, non sullo scudo come misura, ma sul bassissimo numero di segnalazioni che sono arrivate dalle società finanziarie che si occupavano di scudare i capitali alla Banca d'Italia per le diciamo, norme antiriciclaggio. Cioè, è prevista che le banche segnalassero il rientro di capitali sospetto. Ebbene, su centinaia di migliaia di operazioni, solo 50 rientri sono stati segnalati alla Banca d'Italia, e Draghi ha detto: beh, un po' pochini, aggiungo io, considerato che l'Italia qualche problema di criminalità organizzata ce l'ha. 349-238-6666 per i vostri sms. Partiremo in apertura con i dati sull'export, bilancio del 2009, anche qui senza fasciarsi troppo la testa, è chiaro che è stato un bilancio pesante come tutto il 2009, però miglioramento nel mese di dicembre sulle esportazioni italiane, che in assenza di consumi ci si augura siano l'elemento con cui agganciare la ripresa a livello mondiale. Dicevo, per quello che riguarda gli sms, il numero è sempre 349-238-6666. Per quello che riguarda la borsa, in assenza appunto di Wall Street, Milano guadagna lo 0,3%, Parigi lo 0,2%, Francoforte lo 0,1%, Londra lo 0,3%, quindi borse poco mosse. Euro a quota 1,359. Campari è tra i peggiori titoli assieme a Prismian, perde il 2%, Prismian il 3,5%, Buzzi il 2%, ST Microelectronics meno 1,5%, Saipem meno 1%, sul fronte opposto CIR più 3,60%, Impregilo più 3,3%, Mediobanca più 2,1% come Mediolanum, l'1,40% rialzo della Popolare di Milano e di Unicredito, l'1,3% quello di Mondadori e Atlantia e anche Generali, l'1% quello di Fondiaria e del Banco Popolare. Rapidamente le altre notizie in breve. Il prezzo del petrolio risale a quello londinese, perché praticamente questa, appunto, con la chiusura di Wall Street stamattina segnava 74 dollari al barile. Per quello che riguarda l'Unione Petrolifera Italiana, invece, oggi ha fatto sapere che i consumi petroliferi italiani nel mese di gennaio hanno fatto segnare una nuova pesante flessione, meno 8,8%. Tra l'altro la British Airways, restiamo in tema di petrolio, ha stretto un accordo con l'americana Solena Group per costruire la prima fabbrica d'Europa capace di produrre carburante per i jet sfruttando le biomasse, e quindi un biofuel, come si chiama in gergo. Lo stabilimento sorgerà nella parte est di Londra e fornirà alla British Airways oltre 72 milioni di litri di biocherosene all'anno. Vedo già molti messaggi sulla vicenda Goldman Sachs, sul fatto che alcune banche, tra cui Goldman Sachs, avrebbero aiutato la Grecia a truccare i conti. Vi arriveremo tra un'ora. Tra l'altro l'Unione Europea e Eurostat oggi hanno chiesto alla Grecia spiegazioni sul presunto aiuto fornito ad Atene da alcune grandi banche d'affari americane. Vi dico anche che di mezzo ci sarebbe anche JP Morgan, e viene citata l'Italia nell'articolo, perché il New York Times dice: nel passato meccanismi analoghi per truccare i conti e mostrare che si stavano rispettando i criteri di Maastricht sarebbero stati forniti attraverso prodotti derivati anche all'Italia, un modo per ridurre artificialmente, appunto, il deficit italiano attraverso meccanismi particolari legati ai tassi di cambio. Ancora, per quello che riguarda questi contratti swap, oggi il ministro delle finanze greco George Papa Constantinou ha detto: non è mai stato utilizzato alcuno strumento illegale non compatibile con le norme di Eurostat, i nostri contratti swap erano assolutamente legali. Di Draghi parleremo tra un attimo. Ultima notizia prima di passare al nostro tema di approfondimento. Allora, senza il rinnovo degli incentivi alla rottamazione, le casse dello Stato, dell'erario, perderebbero circa 800 milioni di gettito IVA, mentre in termini di fatturato il mercato perderebbe 4 miliardi e mezzo. Lo denuncia l'URAE, che è l'associazione che riunisce le case automobilistiche estere che le producono e che sono presenti in Italia. Dice sempre l'URAE: la perdita occupazionale per la filiera distributiva delle case estere è stimata in circa 10.000 posti di lavoro. Ancora, le ultime notizie riguardano di nuovo lo scudo fiscale, agenzia appena battuta, ed è veramente l'ultima. Chi ha fatto la parte del leone nello scudare i capitali? Sono i private bankers, quindi la situazione italiana di private banking. Il settore ha su 95 miliardi di euro rientrati, condonati, ben 44 miliardi sono stati gestiti dai banchieri, dei private bankers, quelli che sostanzialmente seguono e gestiscono i capitali, gli alti capitali, i capitali dei milionari. Secondo le stime, infatti, appunto, 46% private banking, 15% SIM SGR, 27% le banche, 12% da fiduciari. Allora, primo tema, i dati di oggi sul bilancio commerciale, sull'export nell'intero 2009 e con dicembre anche a darci un po' di spiraglio e di speranza. Dico un po' di spiraglio e di speranza perché, insomma, il dato, come già il PIL la settimana scorsa, è un dato di quelli pesanti. Meno 20,7% nel 2009 le esportazioni italiane, un crollo, anche qui lo dico senza nessuna enfasi, che non si registrava dal 1970, ossia da quando, anche in questo caso, esistono le serie storiche. Bilancio commerciale comunque negativa, anche se in miglioramento, e lo spieghiamo, vedo già dei messaggi al 349-238-6666, cioè se le importazioni sono calate più delle esportazioni, paradossalmente il deficit della bilancia commerciale migliora rispetto all'anno scorso, perché abbiamo importato meno di quanto abbiamo esportato, ma... E questo è il deficit della bilancia commerciale. Certo che alle nostre imprese e a noi interessa anche e soprattutto quanto riusciamo a esportare, che paradossalmente potremmo avere un pareggio tra import e export, perché magari l'import fa meno 20 e anche l'export fa meno 20. Dicevo, quindi deficit sceso a 4 miliardi di euro, i cali più forti e i settori dove questi cali sono stati più forti nelle nostre esportazioni, ce lo ricorda questa scheda. Attenzione però, perché c'è una grossa differenza tra, per fortuna, tra i primi sei mesi del 2009 e la coda finale del 2009. Il dato su dicembre infatti ha visto per tornare il segno più, non tantissimo, più 1,4%, ma è sempre meglio che niente. La scheda. Gli ultimi dati sulle esportazioni italiane si prestano a una duplice e contrapposta lettura. Sconfortanti quelli relativi all'intero 2009, incoraggianti quelli di dicembre. Il calo annuo è pesante, il peggiore da almeno 40 anni, e insieme a quelli del PIL e della produzione industriale contribuiscono a disegnare il quadro dell'economia italiana più fosco degli ultimi decenni. Flessioni a due cifre hanno interessato quasi tutti i settori, a cominciare dalle auto, in discesa di ben il 34% rispetto al 2008. Le vendite all'estero sono diminuite di circa il 20% per la meccanica, i mobili e la chimica. Solo un poco meglio l'abbigliamento e calzature, meno 17%, e l'elettronica, in calo del 14%. Si è salvato l'alimentare con una flessione del 3% e soprattutto la farmaceutica, unico settore in positivo, grazie a un aumento delle esportazioni del 2%. A livello geografico sono andate male soprattutto le vendite verso la Russia e la Spagna, con flessioni di oltre il 30%, appena meno peggio quelle verso Stati Uniti, Germania e Francia, diminuite di circa il 20%. Bene viceversa quelle verso la Cina, aumentate del 3%. Il 2009 si è chiuso però con una buona notizia. In dicembre, dopo 14 mesi consecutivi di calo, le esportazioni verso i paesi europei sono tornate a crescere. In particolare hanno ripreso fiato le vendite verso la Francia, più 8%, e in misura minore quelle verso la Spagna e la Gran Bretagna. La spinta più forte è arrivata tuttavia dalla Cina, che ha comprato il 17% di Made in Italy in più rispetto all'anno prima. I nostri prodotti rimangono ancora in difficoltà sul mercato statunitense e su quello russo, con flessioni di oltre il 20%. Nell'ultimo mese del 2009 tutti i settori hanno respirato l'aria della ripresa. Si va infatti dal più 19% rispetto al dicembre 2008 della meccanica, al più 2,5% dei mobili, passando dal più 4% di automobili e abbigliamento e dal più 6% di alimentare e chimica. Questi come sempre i nostri dati. Attenzione, il 2009 è un anno da dimenticare sotto ogni profilo. L'importante è la coda, così come venerdì abbiamo commentato negativamente il fatto che nell'ultimo trimestre, contrariamente ogni previsione, il PIL italiano sia di nuovo calato, perché ci preoccupa appunto il mese su mese. Così possiamo commentare con una certa soddisfazione che a dicembre è tornato il segno più nelle esportazioni, e più 17 in Cina. Certo, resta un meno 23% in America, che è un segnale non bello, ma un più 8,5% in Francia, anche in Gran Bretagna più 2,5%, Spagna più 3, la Germania rispetto all'anno prima continua a segnare un meno 2,6%. Allora ne parliamo adesso con l'economista Fabio Sdogati, che insegna economia internazionale al MIP Politecnico di Milano. Buonasera professore. Buonasera. Che il 2009 fosse un anno pesante lo sapevamo. Vorrei capire una cosa: è più preoccupato da una Germania che resta un meno 2,6% a dicembre quanto al nostro export, o è più contento di una Cina che fa più 17? Ma sono sicuramente più contento di una Cina che fa più 17, perché questo dovrebbe tenere fuori dalla baruffa coloro i quali volevano imporre dazi contro la Cina quando le cose andavano bene, e io non oso pensare a cosa succederebbe oggi. La Cina è un mercato in grande crescita, assorbe una quantità di macchinario, di beni di consumo durevole, di cose che sappiamo fare bene. Questo numero mi conforta molto, veramente molto. La Germania si approvvigiona delle cose che tradizionalmente facevamo noi ormai dalla Cina, per l'appunto, dai paesi emergenti. Vedo certi numeri sulla Turchia veramente molto belli, anche qui un messaggio più che economico, politico. Facciamo attenzione, non isoliamo coloro i quali non sono da molti e molti anni sul mercato internazionale. Stiamo cambiando partner commerciali, questo è un fatto che emerge ormai con grande chiarezza. Allora, io ricordo, adesso vado a memoria, ma come proporzione, la Germania, dunque noi esportiamo circa il 60% di tutto l'export verso l'Europa, no? Sì. Di questo la metà, quindi a spanne un 30%, andava in Germania. Vero. Le chiedo questo perché un conto è capire quanto cresci, no? È un conto però capire i valori assoluti, perché il più 17 in Cina temo che non equilibri il meno 2,5 in Germania. Per cui io leggerei questi dati che lei possiede perfettamente in una maniera dinamica. Voglio dire, il problema è da dove verrà la domanda futura. Il problema è dove devono posizionarsi le nostre imprese, ovviamente quelle che riescono a farlo. Il problema è i paesi emergenti, il problema è la Cina, il problema è l'India, il problema è la Turchia, il problema è il Brasile. Cioè, dobbiamo un pochino sganciarci da questa idea che noi siamo coloro i quali fanno i beni di consumo, magari voluttuari, per i paesi a più alto reddito pro capite. Siamo stati sostituiti in questo. Tutto lo sforzo che alcuni settori italiani hanno fatto in termini di differenziazione di prodotto, di aumento di qualità, di upgrading, come si chiama oggigiorno, questo è uno sforzo sicuramente giusto. Quindi nel breve lei ha ragione, le percentuali di crescita grosse su numeri piccoli non sono sempre eccitanti rispetto a percentuali negative piccole ma su basi grosse, però io credo che un'impresa importante, un'impresa italiana che voglia crescere debba guardare al posizionamento. Oggi il posizionamento è sui paesi emergenti. Professor Togati, mi scusi, un'altra domanda, perché ho capito che insomma lentamente dobbiamo abituarci a flussi più verso i cosiddetti BRIC, cioè Brasile, Russia, mi sembra che anche la Russia continui ad avere una certa difficoltà, però Russia, India e Cina, ma se i tedeschi comprano i macchinari o i prodotti semilavorati non più dall'Italia ma dalla Cina, la sto estremizzando, sì, ma noi che cosa vendiamo ai cinesi? No, nel senso che noi eravamo forti nelle 4A del suo collega Fortis, nell'automazione eravamo i migliori, macchine utensili, cioè macchine per produrre altre macchine, detto in gergo, nella meccanica industriale, cioè, lì sono numeri pesanti, quelli sono i distretti della pedemontana lombarda, cioè Brescia, Bergamo, anche in parte Varese. Insomma, se non li vendiamo più alla Germania, non so, li vendiamo ai cinesi? Ma decisamente sì. Ah. Ricordiamo due cose. La prima cosa è che noi abbiamo cominciato, proprio la pedemontana ha cominciato customizzando, come si dice con un neologismo terribile, cosa vorrebbe dire? Le macchine utensili che erano prodotte in serie dai tedeschi. Quindi noi avevamo un artigianato bravissimo, gente molto brava a modificare la macchina di base prodotta dai tedeschi per adattarla ai bisogni dei produttori. Quindi non siamo stati mai dei produttori di macchine di serie. Abbiamo cominciato in quel modo. Ora, il problema qual è? Il problema è che c'è un mondo da industrializzare, questo è il punto vero, cioè queste macchine che noi non vendiamo più alla Germania, ma è ovvio che debbono essere offerte a paesi che hanno un bisogno drammatico di alzare il proprio reddito pro capite, questo è assolutamente così. Anche gli Stati Uniti, le difficoltà che abbiamo ad esportare negli Stati Uniti, ma lì c'è una variazione, un cambiamento nel modello di crescita, ma che fa veramente paura. Io ancora una volta torno a invitare gli agenti economici, le imprese, i responsabili della politica economica a pensare bene al fatto che gli Stati Uniti stanno cambiando modello di crescita, stanno premiando la scommessa sulla qualità della vita, la salute, l'energia pulita, le fonti rinnovabili, la qualità della vita in genere. Imprese italiane che siano in grado di cogliere questa opportunità faranno la ricchezza propria e la ricchezza di questo paese. Sì, su questo attenzione anche delle battaglie un po' di retrovia sui temi ambientali, perché da noi spesso si sente dire ma insomma Kyoto ci penalizza. È vero, ma è anche un'opportunità, l'abbiamo detto più volte, di riconvertire interi settori di impresa. Se quello è il futuro, forse invece che chiedere 5 anni di proroga per poi comunque dover riconvertire le imprese o pagare milioni e milioni di multe, meglio iniziare adesso a entrare nella cosiddetta green economy. Una cosa però non mi è chiara, professor Sdogati, perché i tedeschi non voglio dire, noi facciamo macchine, diceva, la customizzazione, cioè la personalizzazione della macchina, mettiamola così, e siamo in grado di farle per i cinesi. Io cito volutamente la meccanica industriale e l'automazione, perché tanto sulla moda, l'alimentare è più facile il ragionamento, anche sul legno arredo è più facile, ma insomma le facciamo per i cinesi perché loro devono industrializzarsi. Bene, ma perché non le facciamo più per i tedeschi? Cioè mi manca un passaggio. Noi ai cinesi daremo delle macchine forse un po' più semplici, ma non è che poi questi ce le coprono e le vendono i tedeschi, perché già se ci stanno fregando quota di mercato sui tedeschi potrebbe andare avanti, no? Sì, dubito che io personalmente potrò vedere il giorno in cui i cinesi invaderanno la Germania di macchine utensili, su un tono più serio. Allora, io ricordo l'intervista al capo di una grande impresa tedesca, Siemens, sul Financial Times, sì, il quale diceva: esistono per l'Europa due modelli. Un modello è quello tedesco. Noi inventiamo, progettiamo, disegniamo, facciamo i prototipi di turbine di nuova generazione. Questo facciamo noi. Dopodiché le facciamo produrre agli altri. Perché la Germania è questo. Lei ricorderà sicuramente quando c'era un dibattito incredibile sul fatto che la Germania era diventata una bazar economy. La Germania era stata guidata verso la deindustrializzazione pesante con l'accordo di IG Metall, cioè del sindacato dei metalmeccanici tedeschi. E poi diceva questo signore di Siemens: c'è un altro modello che non c'è bisogno di identificare con un paese adesso, ma è il modello in cui si lavora sul turismo, si lavora, lui era un po' ironico, diceva si lavora con gli ombrellini nelle bevande colorate, insomma. Ecco, credo che la Germania sia questo, no? Concezione di frontiera della produzione, anche della produzione industriale, quindi anche di turbine, ma non è più la produzione quello che interessa. Questo è il punto fondamentale, cioè noi dobbiamo abituarci a lavorare molto sulla ricerca, sull'innovazione, che sono parole stradette che probabilmente sì, che vengono anche a noi delle volte, però è vero, no, anche perché poi insomma io ripeto sempre, senza polemica politica, poi uno dice ricerca, formazione, poi 1 miliardo in meno sulla scuola, tanto nell'ultima finanziaria, perché quando c'è da tagliare in Italia si taglia sempre sulla scuola e va bene, però quello che vorrei capire, ma veramente possiamo immaginare una Germania che va a diventare, diciamo, il cuore quasi terziario della ricerca e basta, e non produce più nelle fabbriche i macchinari finali, non dico quelli ben intermedi, ma macchinari finali? Parlo degli Stati Uniti, che sono il leader di questa tendenza. Oggi negli Stati Uniti credo il 9,8%, comunque diciamo il 10% della popolazione attiva lavora in manifattura. Questi non sono blue collar, operai, questi sono tutti quelli che vengono classificati come occupati nella manifattura, dagli ingegneri giù fino a tutte le categorie. Allora, questo dirà qualcosa, cioè, questo è un processo di deindustrializzazione che Bruce Springsteen cantava già nel 1984 nel suo Born in the USA. Noi sappiamo che la deindustrializzazione, quando comincia, A, non si ferma, e B, la manifattura non torna indietro. La valle della Ruhr sta soffrendo drammaticamente, sta cercando di riconvertirsi, ha tassi di disoccupazione molto forti, però parliamo di musei industriali, di archeologia industriale, la manifattura indietro non torna, e quindi la grande scommessa sulla ricerca. Ecco, questa è la Germania, che come lei ricordava però ha un vantaggio su di noi, ne ha più di uno, ma insomma, che ha i grandi gruppi, no? Penso alla Siemens, lei citava la Siemens, è il caso più chiaro, no? Gruppi enormi. Noi che non abbiamo i grandi gruppi, gruppi, o ne abbiamo molto pochi, e sono quasi tutti partecipati dallo Stato, non che sia un male, ma insomma è un'altra storia, ma siamo esportatori, mentre i francesi non hanno gruppi molto partecipati, anche grandi, ma esportano pochissimo rispetto a noi, diciamo in proporzione. Dove andiamo a agganciarci? Perché ho capito che andiamo a fornire macchinari per industrializzare questi paesi, ma ci basta? Perché a me poi quello che interessa è la tenuta dell'occupazione, non è che mi interessa che cosa esportiamo, basta che il numero di occupati più o meno resti uguale. E credo che qui noi differiamo le nostre visioni di fondo. Io oggi mi vado a parlare in modo un po' obliquo. I miei ragazzi migliori vengono pagati, lei sa che io produco ingegneri, sì. Vengono pagati 1.800 euro al mese in Germania, 1.500 in Francia, e soltanto da pochissimi grandi gruppi italiani vengono pagati tra 900 e 1.200, altrimenti stiamo sui 600. Cioè, il mio problema non è mantenere il livello di occupazione, il mio problema è mantenere in casa questi ragazzi che sono bravi. Poi dopo ci lamentiamo, per carità, era sempre meglio prima quando eravamo giovani noi. Verissimo, questi ragazzi sono bravi, questi trovano occupazione all'estero rapidamente, quindi questo è il problema vero non è l'occupazione di chi oggi è occupato, è anche quello, ma il problema vero comprende il problema delle giovani generazioni, che non possiamo frustrare, perché che se ne dica, la nostra scuola media superiore è buona, sì. La nostra università, certo, da sede a sede sono differenze, però quelli che escono da università buone fanno carriere internazionali da far paura, insomma. Cioè, siamo molto competitivi come individui. E allora perché veniamo pagati così poco? Stamattina ho acceso la radio, non so se posso dire quale, però c'era un signore che peraltro non ho identificato, il quale usava esattamente queste parole. Ci hanno raccontato una grande balla, e cioè che piccolo è bello. L'impresa deve crescere, è nella sua natura. Ecco, io non credo che questa sia una balla, questo è un modello su cui ci siamo arricchiti, chi più chi meno, è un modello che ha tirato fuori l'Italia dal sottosviluppo, perché eravamo il paese più povero subito dopo la guerra, ad esclusione dei paesi di Portogallo, Spagna e Grecia. Abbiamo fatto degli sforzi incredibili, la piccola impresa è stata una scoperta incredibile, continuare a contarsela sulla piccola e media impresa. No, ma guardi, se ragioniamo di modelli produttivi da settimane, da mesi, stiamo dicendo che ormai nemmeno il distretto inteso come tale regge più, cioè quel distretto vuol dire quei 150 luoghi in cui si fa monoproduzione, sedia, piastrella, quello che volete voi, e per gemmazione ne scevano imprese, il dipendente aprivano imprese, poi si scambiavano le idee al bar, al ristorante, tra parenti, e questo creava know-how, cioè conoscenza dentro il distretto. Questo non basta più, e ce lo dicono molti suoi colleghi, perché di fronte alle sfide della globalizzazione il distretto arranca, occorrono reti lunghe, occorrono contatti. Ma dopo le informazioni sul metodo, professor Sdogati, vorrei capire perché lei lega le dimensioni di impresa alla retribuzione dell'ingegnere. Cioè, io non ho capito se ci sia un legame, se l'impresa è piccola, non è che lo stipendio sia piccolo, anzi, delle volte vediamo che sono le grandi multinazionali o i grandi nomi a pagare un po' di meno i neoassunti. Siccome il tema ci interessa moltissimo, perché altro che fuga di cervelli, qui avremo fuga di cervelli, braccia e anche piedi, fra un po'. Le do appuntamento fra 3 minuti dopo il meteo e la pubblicità, 349-238-6666 per i vostri sms. ...17:38 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, professor Sdogati, ho capito benissimo, stiamo commentando, lo dico che si fosse messo in ascolto, i dati sull'andamento delle esportazioni nel 2009, mai così male da quando esiste la serie storica, dal 1970, però con una ripresa nel finale d'anno, export più 1,4%, con il dato complessivo meno 20,7%. Lei ha detto, attenzione, anche qui riepilogo, c'è un problema di, più che di mantenimento dell'occupazione, di dare un salario decente ai nostri occupati, e il riferimento era appunto agli ingegneri che lei aiuta a formare al Politecnico di Milano, che vanno a guadagnare 1.400-1.500 in Germania, 1.000 in Francia, 600 se va bene in Italia. Non ho capito quale sia il nesso tra come poco paghiamo i nostri laureati per tenerli in Italia o comunque i nostri specializzati e le dimensioni dell'impresa. Ma guardi, lo dico in due modi, sperando di essere chiaro sì. e sintetico allo stesso tempo. Primo modo, una piccola azienda non ha bisogno di un ingegnere. Sto estremizzando un pochino ovviamente, ma mille volte mi sono sentito dire da imprenditori: sa professore, questa è un'impresa familiare, io devo assicurarmi che mio figlio cresca dentro l'azienda, so che magari avrei bisogno di un direttore finanziario, però non ce lo possiamo permettere. Da un punto di vista più tecnico-analitico, noi diciamo che la remunerazione è legata alla produttività. Ora, in questo paese la produttività viene presentata come il risultato della buona attitudine, della buona volontà del lavoratore. Non è così. La produttività è soprattutto il risultato dell'interazione fra il lavoratore e il capitale. Questo capitale può essere un capitale di conoscenze, ma poi deve essere anche un capitale fisico. Voglio dire, se io metto una persona intelligente a lavorare davanti a un computer di questa generazione dei computer otterrà certi risultati, se gli do il computer che avevo io negli anni 70 otterrà risultati molto più bassi. Una produttività alta assicura una remunerazione alta. E quindi lei dice, in realtà, oltre che non esserci una grande richiesta, io su questo sono un po' più scettico, c'è una bassa, diciamo, produttività in queste aziende, e quindi c'è anche meno bisogno di certe figure formate. Esattamente. Voglio dire, questo è quello che succede nei cosiddetti settori tradizionali, quelli in cui non c'è bisogno di innovare o comunque non si innova, quelli nei quali poi i ragazzi si trovano stretti, allora, perché hanno appreso delle nozioni, delle conoscenze, dei metodi, delle metodologie, e queste metodologie poi in azienda non le ritrovano sempre. Allora, laddove non le ritrovano, ecco che abbiamo identificato il posto che non può essere competitivo né con la Germania né, sì, né con gli Stati Uniti. Questo è un tema delicatissimo su cui torneremo anche con chi fa consulenza di impresa, perché ci scrivono gli ascoltatori: ma non ho capito, il piccolo è bello o no? Allora, il piccolo è stato bello e ha funzionato moltissimo, e in alcuni settori funziona ancora, perché poi non è vero che è così piccolo, lavora sulla nicchia, quindi magari è leader in quei settori. Certo che se, come ci ha appena raccontato Fabio Sdogati, e soprattutto come ci ha raccontato l'Istat oggi, guardando quel poco di ripresa dell'export che arriva, più 17% è Cina, poi c'è Brasile, poi c'è un po' di Francia, un po' di Gran Bretagna, non c'è la Germania, -2,6%, ma soprattutto non ci sono gli Stati Uniti, -23%, e parlo dei dati migliori, quelli di dicembre, non vi cito neanche quelli del 2009, perché l'America li fa -25%, la Germania fa -21%, la Francia -18%, come nostre esportazioni lì. Beh, se le esportazioni andranno in paesi più distanti, è chiaro che allora un problema di dimensione ce l'hai, e se il distretto non basta più, occorre che tu ti metta in rete, quantomeno per abbattere i costi fissi. D'accordo, Sdogati? Perché non è che possiamo chiedere a tutti di vendere o fondersi, e forse di affrontare il passaggio generazionale, come scrivono alcuni ascoltatori, cioè prenditi un manager e non necessariamente avere i figli dentro. Io credo che sia un problema molto semplice, scusi, non volevo dire semplice, molto chiaro nella mia testa. Il problema è quello delle competenze. Noi non possiamo sacrificare le competenze ai, per esempio, tabù familiari. Come ha appena detto lei, non possiamo sacrificare il premio delle competenze a questioni di dimensione, di capacità, insomma. Ci sono stati grandissimi imprenditori italiani i quali a un certo punto hanno lasciato l'azienda ai figli dicendo: io ho costruito una macchina enorme, adesso il gioco è diventato un gioco globale, non è più il mio gioco, giocate voi. E l'azienda va bene. Certo. Ecco, io credo che noi dobbiamo fare questo. Dobbiamo fare un pochino gli americani, nel senso che abbiamo delle grandi capacità. Le stiamo costringendo da diversi anni, grosso modo dalla fine, diciamo dal 92 per intenderci, via dalla grande svalutazione, alla ricerca di quei piccoli meccanismi, di quelle piccole nicchie, di quei piccoli luoghi in cui possiamo far valere ancora le nostre capacità. Ne abbiamo di più di capacità. Io oggi la quantità di economisti giovani che lavora in università straniere, non che studia, che lavora in università straniere, è catastrofica. In senso positivo, immagino. Come dice? In senso positivo, catastrofica, non che è una catastrofe. No, catastrofica per noi, perché non perché non sono rimasti da noi, beh, certo. Esatto, perché non sono rimasti da noi e non sono qui a formare nuova classe di giovani, le nuove generazioni. Quindi questo è un fatto importantissimo. Vabbè, insomma, se questo export, che per noi vuol dire la ripresa economica vera e propria, perché tanto non arriverà niente dai consumi interni, se questo export sarà sempre di più un export in cui bisogna conoscere le lingue, andare in quei paesi, avere reti lunghe, avere capitale, ecco un altro problema delle dimensioni. La Cina, l'India, il Brasile sono mercati che si affrontano con i capitali. Il piccolo e bello, in questi casi ce lo scordiamo, anche il distretto non regge più perché era fatto di tanti piccoli che si passavano le idee ma restavano piccoli. Occorre trovare, come chiedono anche molte associazioni di Confindustria, delle reti integrate, ne abbiamo parlato più volte. Grazie per ora a Fabio Sdogati, che ci ha aiutato a leggere questi dati, il bilancio complessivo del 2009, ma soprattutto la parte finale, le informazioni sul traffico, poi la borsa, che vi dico subito ha chiuso praticamente poco mossa, più 0,4% rispetto all'inizio del programma. E poi Mario Draghi, lo scudo fiscale, le pochissime segnalazioni di capitali sospetti di proventi criminali arrivate alla Banca d'Italia e chiaramente anche questa vicenda di Goldman Sachs e JP Morgan, che hanno aiutato la Grecia e, dice il New York Times, anche l'Italia nel passato a truccare i conti. 349-238-6666 per gli sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso non possiamo continuare sui dati sull'export e anche su come deve cambiare il nostro modello produttivo. Avremo tutti i prossimi mesi davanti per commentare questo, con una ripresa fragile, lenta, e che appunto ci permetterà anche di ragionare sui modelli. Ha ragione chi scrive, a mio avviso, ma occorrerebbe anche una politica industriale. Lo so, è decenni che mancano politiche industriali in questo paese. Vuol dire decidere che cosa deve fare l'Italia da grande nei prossimi 15 vent'anni. E ancora condivido anche tanti altri messaggi sui problemi. Perché tagliare 1 miliardo all'istruzione per forza negativo? Perché un conto è risparmiare, un conto tagliare, tutto qua. Comunque la borsa, allora più 0,40%, Parigi più 0,3%, Francoforte più 0,2%, Londra più 0,5%. E l'America è oggi chiusa, così come è chiusa la Grecia. La Grecia è chiusa per festività anch'essa, non è che adesso ogni volta che la Grecia è chiusa bisogna iniziare a temere che la borsa greca non abbia aperto. Hanno anche loro, ci mancherebbe, le festività. CIR più 3,80, Impregilo più 3,6, Mediolanum più 2,5, Mediobanca più 2, Mondadori più 1,70, Unicredito più 1,6, 1,5% il rialzo di Atlanti, all'1,3 quello di Generali, di Fondiaria e anche del Popolare Milano. L'1,1% l'aumento del Banco Popolare di Italcementi, l'1% di Tenaris. Prismian meno 3, Campari meno 1,7, come Buzzi Unici, 1,5% per DT Microelectronics, 0,5% Exor. Euro a quota 1,36. Eleonora Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, borse tutto sommato anche senza Wall Street ce l'hanno fatta e questo ci fa piacere. Andiamo sui singoli titoli. Oggi per fortuna non mi sembra che ci fossero casi così internazionali. CIR più 3,80%. Sì, i titoli appunto hanno rialzato la testa, si sono messi in evidenza e sono arrivati a guadagnare oltre il 4% nel durante della seduta. Diciamo, a riaccendere i riflettori sulla finanziaria di Casa Di Benedetti è stata un'intervista che il giornale francese Les Echos ha fatto a Rodolfo De Benedetti. L'imprenditore ha puntato all'indice soprattutto su Sorgenia, la società di energia che appunto è controllata dalla stessa CIR insieme anche ad altri soci. Praticamente niente, l'imprenditore ha detto che il settore delle energie rinnovabili, nel quale opera tra l'altro Sorgenia, e comunque dell'energia in generale, sarà il futuro, rappresenterà il settore trainante come negli anni 60 lo è stato ad esempio il comparto dell'auto. Tutto questo ha contribuito a riaccendere i riflettori sul titolo, che così sono balzati in avanti di oltre il 3%. Sì, del 3,80. Dunque, Pirelli Real Estate, vedo molti di voi che ci chiedono di Pirelli, che succede a Pirelli. Allora andiamo con ordine, il titolo in come è andato, ma molto bene più 13%. Volete sapere se qui si avvicina l'ipotesi di spin-off, che vuol dire di separazione tra Pirelli e Pirelli Real Estate? Io giro la domanda all'onorevole Micheli. Sì, oggi ci sono state indiscrezioni di ricostruzioni di giornale in cui si dice che appunto lo spin-off di Pirelli da Pirelli Real Estate andrà avanti, nonostante che di recente si sia bloccato il progetto di matrimonio tra Pirelli Real Estate e Fimit. D'altra parte va considerato che lo scorso autunno lo stesso Tronchetti Provera, numero uno del gruppo Pirelli, aveva detto che nel 2010 sarebbe avvenuto uno scorporo di Pirelli Real Estate rispetto a Pirelli, indipendentemente poi dal matrimonio di Fimit, che peraltro di cui è emersa notizia tra l'altro nei mesi successivi. Lo scorporo di Pirelli Real Estate in effetti dovrebbe sposare una logica in cui appunto si vuole separare l'attività strettamente e meramente industriale di Pirelli da quella del Real Estate, e quindi, come poi sostengono anche oggi alcuni quotidiani, cioè, è ovvio che si vada verso uno spin-off che dovrebbe essere realizzato nel 2010, indipendentemente poi da come siano andate nei mesi scorsi le trattative con Fimit. Questo però ha riacceso i riflettori su Pirelli Real Estate, soprattutto che aveva sofferto peraltro nelle scorse settimane, nel durante della seduta erano andate bene anche le Pirelli, che poi hanno frenato proprio Eleonora, dobbiamo andare un po' più rapidi sui titoli perché ho ancora altre domande da farti. In pregilo, qui c'è una notizia sul Sole 24 Ore di sabato, se non ricordo male, per quello che riguarda il titolo, che è il secondo miglior titolo, più 3,6%. Esatto, il Sole 24 Ore di sabato scorso rilancia l'ipotesi che la scorsa settimana, al termine del CDA che si è tenuto giovedì scorso, due soci, vale a dire Gavio e Ligresti, hanno trovato l'accordo per appunto ulteriori 3 anni per il controllo di Impregilo. Ovviamente l'accordo per adesso deve essere avvallato da tutto il patto di sindacato e soprattutto dai Benetton. E anche dalla famiglia Benetton. Ancora andiamo avanti, Mediolanum più 2,50, Mediobanca più 2, Mondadori più 1,70, l'abbiamo detto, più 1,6 Unicredit e Atlantia, Generali più 1,3%. Rapidamente in una battuta, Fiat più 0,70, più che altro c'è un'intervista del ministro Scajola al Secolo XIX oggi, se non ho visto male. Esatto, un'intervista nella quale appunto Scajola dice che è possibile che si vada a un invito internazionale per avere altre proposte che portino al salvataggio di Termini Imerese. Il mercato continua a tenere alta l'attenzione proprio sul tema di Termini Imerese, nonché sui progetti che Fiat ha nel Nord America. I titoli comunque oggi sono andati bene, anche perché nel durante della seduta andava bene un po' tutto il settore auto europeo, che poi ha frenato sul finale. Grazie donna Michele, Radio Corri di Sole 24 Ore. Adesso iniziamo a parlare anche, che ne parleremo lungo tutta la seconda parte del programma, dell'intervento di Mario Draghi, governatore della Banca d'Italia, al Forex da un lato, e di quello che ha scoperto il New York Times, ossia banche d'affari che aiutavano i governi a truccare i conti. Partiamo dai temi nazionali per poi arrivare a quelli internazionali. Cosa ha detto Mario Draghi? Lo avete letto su alcuni giornali, o su tutti perlomeno. Attenzione, dalle ultime indagini della Banca d'Italia c'è una moderata ripresa delle domande delle aziende verso le banche, però occorre che le banche diano ancora più credito alle imprese e che avvisino invece i clienti, e quindi tutti noi cittadini, qua, dei rischi dei mutui a tasso variabile. La contrazione del credito riguarda le imprese, non le famiglie. A dicembre i prestiti alle imprese erano del 3% inferiori a quelli del dicembre 2008. Da un lato se n'era ridotta la domanda per la forte flessione degli investimenti. Dall'altro incideva l'accresciuta cautela delle banche nell'offrire finanziamenti in una fase di profonda recessione. L'espansione dei crediti alle famiglie è invece continuata a ritmi dell'ordine del 3% sui 12 mesi. I nuovi prestiti per l'acquisto di abitazioni vengono concessi prevalentemente a tasso variabile. Un richiamo qui: occorre che i contraenti siano avvertiti del rischio che corrono in caso di aumenti di tasso. Secondo le indagini più recenti presso le banche, vi è una moderata ripresa della domanda di finanziamenti da parte delle imprese. quelle impegnate in processi di adeguamento tecnologico e internazionalizzazione meritano maggiore attenzione. Il Governo ha adottato diverse iniziative nel corso del 2009 per rafforzare il supporto delle banche alle piccole e medie imprese. Importante continuerà a essere il ruolo dei Confidi nel migliorare le condizioni di accesso ai prestiti e nel preservare la qualità del credito bancario. Allora, lo dice il governatore della Banca d'Italia, il calo, lo avete sentito, dei prestiti erogati dalle banche alle imprese. Così chiudiamo ogni polemica. Dopo il GR, invece, sentiamo anche i costi dei conti correnti e soprattutto così la critica, lo spillo che è arrivato sullo scudo fiscale, le sue poche denunce di rientri sospetti. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia, e in cui parleremo di questo mezzo giallo e nero, chiamatelo come volete, che sta scoppiando in America dopo che il New York Times, citando fonti interne a Goldman Sachs, una delle principali banche d'affari americane, ha detto: attenzione, è stata proprio Goldman Sachs, tra l'altro uno dei soggetti, degli attori della crisi che è scoppiata un anno e mezzo fa, a spiegare al governo greco come truccare i conti, e si è fatta pagare lautamente per questo. Si parla di cifre fantasmagoriche, 300 milioni di dollari come consulenze per come abbellire, truccare, imbellettare i conti e dire che il deficit era molto più basso di quello che poi si è dimostrato essere, con tutte le conseguenze che abbiamo, a cui abbiamo assistito in questi giorni. Quanto a tenuta dell'euro, indebolimento dell'euro, speculazioni sulla Grecia che uscirà dall'euro, speculazioni sulla Spagna, insomma una vicenda incredibile, perché è come se uno prima ti creasse la malattia e poi ti desse anche la medicina. Restavamo però, vorrei restare ancora su Mario Draghi, sul governatore della Banca d'Italia di sabato al Forex, perché al di là dell'aver certificato, diciamo così, il calo del credito bancario alle imprese e aver messo in guardia le banche a spiegare bene i rischi del tasso del mutuo a tasso variabile e aver chiesto alle banche di ridurre le commissioni, più che le commissioni, di semplificare i conti correnti, perché dietro conti correnti complicati si possono nascondere commissioni improprie, è arrivato poi ai temi dell'economia vera e propria. Allora, sull'economia italiana ha detto: stiamo uscendo, il dato di oggi sull'export lo dimostra, con un tasso di crescita troppo bassa, ma soprattutto ha aggiunto, senza una ripresa vera e propria c'è un rischio sull'occupazione e sui consumi. Poco più di un anno fa l'Italia entrava nel pieno della crisi che, dopo il fallimento di Lehman Brothers, diventava globale. Vi entrava con un tasso di crescita basso ai minimi europei. Sul versante finanziario la nostra economia resisteva all'impatto della crisi meglio di molte altre. La solidità e la prudenza delle nostre banche non rendevano da noi necessari interventi di sostegno della portata di quelli che hanno gravemente pesato, direi devastato, i bilanci pubblici di altri paesi. Ma la perdita di produzione di reddito è comunque ingente. Tuttavia, la rete di protezione sociale, pur non riformata organicamente, è stata opportunamente estesa, così da arginare disoccupazione e abbandono sociale. Stiamo ora uscendo dalla crisi con un tasso di crescita basso ai minimi europei. Una crescita economica sostenuta è base di benessere, è presupposto della stabilità finanziaria per un paese ad alto debito pubblico come l'Italia, è futuro per i giovani, dignità per gli anziani. Il nostro Mezzogiorno ne trarrebbe forza, può esso stesso divenirne traino. Di questa crescita ne sono condizione le riforme strutturali, la cui mancanza ha segnato la perdita di competitività del Paese che dura da un quindicennio. In Italia lo scorso anno il prodotto è diminuito di quasi il 5%. Se ne prevede un recupero lento, con ampie incertezze legate in particolare agli andamenti del ciclo internazionale e alle condizioni del mercato del lavoro. Per molte nostre imprese si sono aggravate difficoltà strutturali preesistenti, ma altre possono approfittare dei cambiamenti di mercato indotti dalla crisi per accrescere il loro vantaggio competitivo. La domanda interna resta debole. Alla fine dello scorso anno vi erano in Italia oltre 600.000 occupati in meno rispetto al massimo del luglio 2008. La quota di popolazione potenzialmente attiva, che è al momento forzatamente inoperosa, cioè tutti quelli che non lavorano, è elevata e crescente. Finché la flessione dell'occupazione non si inverte, permane il rischio di ripercussioni sui consumi, quindi sul prodotto. Così Mario Draghi sabato, governatore della Banca d'Italia sabato a Napoli, e prima di arrivare ai temi dell'economia internazionale c'è questo appunto che alcuni giornali hanno ripreso e riguarda proprio lo scudo fiscale. Perché chiaramente il governatore non ha dato un giudizio sullo scudo, stava parlando agli operatori finanziari, banchieri di tutta Italia, ha detto semplicemente è un po' strano che su decine di migliaia di operazioni, c'è chi ha ipotizzato un milione di operazioni, le segnalazioni arrivate alla Banca d'Italia di operazioni sospette, cioè quelle che potrebbero avere nascosto il rientro di capitali mafiosi, camorristi, della criminalità organizzata, siano state solo 50. Tra l'altro proprio oggi arriva il dato su chi ci ha guadagnato più dello scudo come intermediari, soprattutto i private bankers, i banchieri per i ricchi, il 46%, il 15% degli scudi si è svolto attraverso la società di promozione finanziaria, le SIM e le SGR, il 27% dalle banche normali, classiche, e il 12% è passato dalle fiduciarie. Ascoltiamolo questo Draghi che dice alle banche, insomma, un po' più di controllo su questi rientri si poteva anche fare. Le operazioni di rimpatrio dei capitali in regime di scudo fiscale devono essere attentamente esaminate dagli intermediari al fine di individuare e segnalare operazioni sospettabili di riciclaggio. Finora sono giunte poco più di 50 segnalazioni di possibili reati connessi con operazioni di emersione e disponibilità all'estero. È un numero esiguo, spiegato solo in parte dal fatto che la legge esclude l'obbligo di segnalazione per diverse fattispecie di reato. Le banche devono impegnarsi di più a uno scrutinio attento delle operazioni di rimpatrio. A questo fine la Banca d'Italia intensificherà i suoi controlli. Ma è importante dissipare ogni dubbio circa le modalità di applicazione delle norme antiriciclaggio alle operazioni che vi ricadono. La normativa sullo scudo fiscale italiano formerà a breve oggetto di esame da parte degli altri paesi nel gruppo di azione finanziaria internazionale. Insomma, vabbè. Adesso le informazioni per chi è in viaggio e poi la vicenda greca. Ne ha parlato anche il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, ma soprattutto oggi abbiamo scoperto che le grandi banche d'affari che hanno creato la crisi aiutavano i governi a truccare i conti. È il massimo. 349-238-6666 per i vostri sms. Nelle ultime settimane la situazione dei conti pubblici della Grecia ha allarmato i mercati finanziari internazionali. Se il governo greco attuerà il risanamento di bilancio con determinazione e con la puntuale, trasparente verifica da parte della Commissione europea e della Banca Centrale Europea, io credo che saranno gli stessi mercati a sottoscrivere i titoli che verranno in scadenza, come avvenne per l'Italia all'inizio degli anni 90. È comunque importante che i paesi dell'area dell'euro abbiano espresso la volontà di intraprendere, qualora la situazione lo renda necessario, azioni decise e coordinate per garantire la stabilità finanziaria dell'area. L'euro è saldo, ma chiaramente una crisi che produce instabilità finanziaria mondiale colpisce le economie dell'area con intensità diversa a seconda delle strutture su cui poggiano. Occorre che nell'Unione si formi la volontà comune di estendere alle strutture economiche e alle riforme di cui esse necessitano la stessa attenta verifica, lo stesso energico impulso che sono stati esercitati negli anni sui bilanci pubblici. Così il governatore della Banca d'Italia sabato, quando ancora non si sapeva, o forse magari lui lo sapeva, quello che poi ha scoperto e ha scritto il New York Times ieri, e cioè, attenzione, una delle principali banche d'affari americane, la Goldman Sachs, che tra l'altro fu travolta da 10 miliardi di svalutazioni, fu salvata con 10 miliardi di aiuti un anno e mezzo fa, avrebbe avuto un ruolo determinante nell'aiutare il governo greco a truccare i conti. E non sarebbe né la prima né l'unica, perché, dice sempre il New York Times, nel passato anche l'Italia, nel 1996, attorno al 1996, avrebbe utilizzato la consulenza di un'altra banca d'affari, JP Morgan, per abbellire i conti, cioè un po' le cartolarizzazioni che conosciamo: prendi un debito, lo impacchetti, lo giri da un'altra parte, lo sposti, a quel punto non è più tuo. È un po' come allungare il guinzaglio del cane, poi se fa i suoi escrementi a 20 metri, dice ma io stavo dall'altra parte, insomma in realtà il debito è sempre riconducibile a te, ma viene abbellito contabilmente e a quel punto incredibilmente dal 13% del deficit scendi al 3.7%, poi però ti beccano come nel caso greco e vieni di fatto commissariato. E su questo Goldman avrebbe guadagnato 300 milioni di dollari. La vicenda diventa grottesca perché nel frattempo, proprio in questi giorni, la stessa Goldman Sachs e altre banche d'affari hanno speculato sulla debolezza, sul rischio euro dovuto alla Grecia, cioè prima gli spieghi come drogarsi e poi alla fin fine speculi anche sul fatto che il malato non ce la farà a superare l'overdose. Mario Platero, grottesca e grottesca, ci puoi aiutare a capire, tu che sei corrispondente del Sole 24 Ore da New York, che cosa bolle in pentola su questa notizia del Financial Times di ieri? Del New York Times. Del New York Times, scusami. New York Times. La vicenda in qualche modo è nota, si sa che le banche d'affari hanno intrattenuto rapporti molto stretti per aiutare i governi a collocare il loro debito, per rimpacchettarlo nel caso non ci fossero dei coefficienti adeguati, in quella che era considerata una normalissima trattativa di business. Non c'era nulla di, diciamo così, illegale nel mettere a punto dei pacchetti di questo genere. Distinguo ovviamente da quella che è una emissione normale, quindi un collocamento a copertura di un'obbligazione, da quello che poi invece è un impacchetto, diciamo, è la creazione di un pacchetto finanziario costruito su prodotti derivati. Ecco, noi ci stiamo riferendo in questo momento a quello, e di nuovo una cosa che dal punto di vista tecnico non presenta alcuna illegalità. No. Ovviamente, col senno di poi, intervengono mille domande sul piano etico e sul piano morale, era giusto farlo. E quindi, sempre col senno di poi, è facile arrivare a certe conclusioni, ma quando si trattò a suo tempo di mettere insieme l'euro e l'Europa con uno strumento monetario che doveva essere poi l'anticamera di uno strumento politico, beh, un po' tutti i paesi che erano in forse, tra virgolette, hanno cercato di far quadrare i conti come meglio riuscivano, e quando dico tutti intendo anche l'Italia, la Grecia, la Spagna e naturalmente, come abbiamo visto dall'articolo del New York Times, anche l'Italia. Ecco, qual era l'espediente? Era quello di non considerare come delle passività di bilancio che emergevano dunque nel bilancio e lo appesantivano determinate voci, ma di tradurle come delle voci di spesa, delle anticipazioni. Che cosa ha fatto per esempio il governo greco? Ha venduto in anticipo gli introiti sulle tasse degli aeroporti, oppure gli introiti sulle lotterie per un decennio a venire, e quindi si trattava più di una operazione di sconto, se vogliamo, che non di una operazione indebitamento. Certo, Mario, tu capisci bene che però se io andassi da Goldman Sachs e dicessi prestatemi $1 milione perché vi sconto quello che sarà il mio guadagno futuro, mi riderebbero in faccia, cioè, quindi lì si gioca veramente, pur essendo legale, e devo dire che hai ragione nel ricordare che prima dello scoppio di questa crisi e di aver capito quanto drogata era la finanza derivata e strutturata, non so, anche l'Italia, io ricordo che nel penultimo governo Berlusconi, cioè non questo governo Berlusconi ma quello prima, sempre ministro dell'economia Tremonti, ci fu un ricorso alle cartolarizzazioni, quindi venne cartolarizzato un pezzo del nostro debito, che vuol dire impacchettato e ceduto ad altri, perché era una cosa che si faceva, non perché ci fosse così un'innovazione. Le cartolarizzazioni, che è uno strumento classicamente strutturato, erano utilizzate anche dal governo italiano, e se non ricordo male sul debito dell'ANAS, se vado a memoria, si fece qualcosa. Comunque, Resta il parallelo, Mario, più come giudizio politico, di, insomma, io dicevo prima, le facevo prima l'esempio, è come sgonfiare le gomme a un'auto, aiutare a sgonfiare le gomme a un'auto e poi scommettere quando prima o poi sbanderà. Cioè, le stesse banche che hanno guadagnato solo in questo caso 300 milioni di dollari dalla consulenza, adesso scommettono che, e conoscono bene i conti che hanno truccato, scommettono che la Grecia non ce la farà. Sì, sì, questo è un po' il parallelo che ci fu di nuovo con Goldman quando impacchettò certi mutui immobiliari che erano così a forte contenuto di dubbio, li collocò con dei fondi pensione e dopodiché con un'altra divisione, non la stessa che aveva venduto questi pacchetti, cominciò a speculare contro. È chiaro che ci sono forti, forti dubbi su questo modus operandi. Allora, però... Maria, vorrei farti sentire una cosa su questo, perché c'è anche un articolo di Paul Krugman, Nobel all'economia, proprio dedicato all'Europa e sulle vere debolezze dell'Europa. Krugman dice non è il deficit, però abbiamo recuperato un passaggio di un film che tu conosci benissimo, che si chiama Quinto Potere, Sidney Lumet, 1976, Il sistema dei sistemi. Non vi sono nazioni, non vi sono popoli, non vi sono russi, non vi sono arabi, non vi sono terzi mondi, non c'è nessun ovest. Esiste soltanto un unico, un solo sistema di sistemi. Uno, vasto e immane, interdipendente, intrecciato, multivariato, multinazionale dominio dei dollari. Petrodollari, elettrodollari, multidollari, Reichmark, sterline, rubli, franchi e shekel. È il sistema internazionale valutario che determina la totalità della vita su questo pianeta. Beh, a giudicare il rapporto Grecia, Goldman Sachs, speculazione sulla Grecia, sembra un po' il sistema dei sistemi. Mario Pratero, sì, sorridiamo perché sennò, lo dico agli ascoltatori, ci sarebbe da così da arrabbiarsi ancora di più. Qual è, secondo il premio Nobel Krugman, che per primo capì anche i pericoli di questa crisi, il vero problema dell'Europa? Perché lui ha detto, attenzione, non è il deficit. Sì, allora Krugman fa un discorso molto semplice, dice che, numero uno, l'euro è arrivato prima del tempo, alcuni dei paesi non erano preparati, si è deciso di andare avanti per altre ragioni, senza poi compiere quello che doveva essere un ciclo successivo, quello di una maggiore integrazione politica. Lui sostiene che il problema in senso stretto non è quello del disavanzo, questo lo sostiene da tempo, lo sostiene anche per gli Stati Uniti d'America, non è preoccupato dal fatto che ci siano disavanzi così elevati, perché secondo lui questi disavanzi poi si riassorberanno, perché dietro c'è la garanzia di un paese, di una crescita e di una struttura solida. Secondo lui, e qui fa un parallelo fra Stati Uniti ed Europa, manca quella connotazione fiscale di legame fra governo centrale e stati membri dell'Unione, mentre lui fa l'esempio della Florida, quando la Florida ebbe dei problemi sul fronte immobiliare il governo federale intervenne e aiutò immediatamente la Florida con tutta una serie di misure, ad esempio pagando dei conti sul Medicare, sull'assistenza medica per gli anziani, su certi disavanzi sanitari. Cioè, questo in Europa non succede, perché è una finta unione e dunque incoraggia l'Europa ad andare avanti lungo l'integrazione anche fiscale, perché dice questa è una contraddizione che si sapeva essere sbagliata fin dall'inizio, continua ad esserlo oggi. Il fatto che questo bubbone esploda non è perché il disavanzo della Grecia, anche se lui attacca il governo greco per essere stato così poco accurato, poco accorto, eccetera, ma al di là di quello il problema è un problema sistemico, non è un problema di deficit, è un problema di Europa che c'è fino a un certo punto. E quindi che c'è come moneta unica, ma non c'è come fisco uguale, ne sappiamo qualcosa noi che paghiamo tasse diverse sui guadagni da capitale, non lo è nemmeno come iniziative politiche, lo è sui tassi di interesse uguali per tutti e sulla moneta, la valuta uguale per tutti, e sicuramente poi questo qualche problema di sistema, di struttura lo crea. Grazie Mario Pratero, in collegamento con noi da New York. Va bene, o meglio, va così. Da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. A chi mi chiede di Wall Street, ripeto, Wall Street oggi era chiusa, festa del presidente. Chiusa anche la borsa d'Atene, ci risentiamo domani. Radio 24. La passione si sente.